761. Gelato di cioccolata. Latte 1 litro, cioccolata fine grammi 200, zucchero grammi 100. Grattate la cioccolata e mettetela al fuoco con lo zucchero e con 4 decilitri del detto latte in una cazzaruola o vestia ristretta. Fatela bollire per qualche minuto, frullandola sempre onde si affini. Ritiratela dal fuoco, aggiungete il resto del latte e versate il composto nella sorbettiera quando sarà ghiaccio. Anche questa dose potrà bastare per 10 persone. Se volete questo gelato più sostanzioso, portate la dose dello zucchero a 120 grammi ed uniteci 2 rossi d'uovo. Quando ritirate la cioccolata dal fuoco e non è più a bollore, mescolate e rimettetela sul fornello per qualche minuto. E poi, come si è detto, aggiungete il resto del latte.